America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Ecco, avete sentito? Beh, avete sentito la protesta, urla, gente che si azzuffa davanti al Guggenheim Museum. Questo capitava un paio di weekend fa e c'è stata questa protesta contro una mostra. Adesso poi vi racconterò, la mostra è Art in China After 1989 Theater of the World, Arte Cina dopo il 1989, il teatro del mondo. Ebbene, questa protesta poi si è trasformata in una petizione e pensate, la settimana scorsa questa petizione in 4 giorni ha raccolto 500.000 firme contro 3 opere d'arte e poi, il Guggenheim ha deciso dopo queste proteste di rimuovere le 3 opere che erano state attaccate. Ecco, devo dire che un grande museo si arrenda e ritira 3 pezzi chiave, e quando dico chiave dico fondamentali, perché se ricorderete il titolo, Arte e Cina dopo il 1989, Theater of the World, Teatro del Mondo, ebbene una delle opere d'arte era proprio Teatro del Mondo, Theater of the World, ed è stata ritirata. Quindi la mostra si apre domani, e ve ne parlo proprio perché si apre domani, ci saranno i cataloghi col titolo, il titolo resta quello, i manifesti sono stati stampati, senza che l'opera a cui era stata dedicata la mostra ci sia. Perché? Cos'è successo? Beh, sono 3 opere molto particolari. L'idea, secondo la curatrice Alexandra Munro, che aveva lavorato con gli artisti e con dei curatori cinesi, dovrebbero rappresentare 3 metafore della vita in Cina al giorno d'oggi. La prima opera, Dogs That Cannot Touch Each Other, di Sun Yan e Peng Yu, Cani che non possono toccarsi, mostra un video di 7 minuti in cui ci sono 8 pitbull americani che vorrebbero combattere e non riescono perché sono legati. E quindi c'è questa espressione di rabbia, di volontà di poter esprimere quello che vogliono fare, però sono legati e non possono farlo. E quindi questa è una delle metafore, secondo i critici, che rappresenta quella che è stata la condizione degli artisti cinesi soprattutto durante la rivoluzione culturale, nei periodi più bui del maoismo cinese. La seconda opera è Case Study in Transference, quindi un caso studio di trasferimento di Zhu Bing del 1994 e quest'opera fa vedere 2 maiali che praticamente si accoppiano davanti a un pubblico. E infine arriviamo alla 3ª opera d'arte di Wang Yongping, appunto Theater of the World, che dava il titolo a tutta la mostra. E dunque, che cos'è quest'opera d'arte Teatro del Mondo? Beh, è una specie di grande gabbia, è protetta da un reticolato, nella quale ci sono centinaia di insetti, di rettili, serpenti, scarafaggi, scorpioni, lucertole, ragni, tutti insieme in questa gabbia. E cosa fanno? Beh, si confrontano, combattono ferocemente gli uni con gli altri, alcuni proteggono magari gli altri, altri ancora mangiano gli altri insetti. Insomma, devo dire, a descriverla soltanto fa una certa impressione, perché poi questi animali in alcuni casi, vi dicevo, combattono fino alla morte in questa gabbia illuminata dall'alto con le persone che poi osservano questo conflitto. E Alexandra Munro, la curatrice dell'allestimento, una grandissima esperta di arte giapponese, cinese, il capo del dipartimento asiatico al Guggenheim, ci spiega che Huang era interessato a raccontare come specie diverse combattono fra di loro, ma anche coesistono, e voleva inserire una filosofia radicalmente diversa nella nozione di come il mondo lavora in quell'idea di progresso determinata dall'illuminismo. Insomma, dietro quest'opera c'è un ragionamento, ci sono sensazioni, emotività, sofferenze, e dunque sono delle opere importanti che sono state tra l'altro esposte in altri musei del mondo e hanno destato sensazione. La Munro sapeva che potevano esserci dei problemi e ha detto: saremo pronti ad affrontare qualunque situazione. Ebbene, alla fine pronti ad affrontarla non sono stati, perché questi gruppi per la protezione degli animali, per protestare contro la crudeltà che porta l'uomo a sfruttare gli animali in questo caso per opere d'arte, ma qualcuno dei dimostranti diceva non è arte quella che produce crudeltà contro gli animali, e alla fine, vi dicevo, il museo ha deciso di ritirare le opere e il direttore del museo, Richard Armstrong, che conosco, l'abbiamo intervistato anche qui su America 24, un personaggio delizioso, ha dovuto gettare la spugna dicendo la nostra non è una rinuncia intellettuale. Abbiamo ricevuto attacchi, abbiamo ricevuto minacce anche fisiche, alcune credibili contro i nostri dipendenti, e dunque non potevamo correre il rischio che queste minacce si traducessero in qualche cosa di concreto. Ecco, scusate, forse l'ho fatta un po' lunga, ma la storia trovo sia straordinariamente interessante, perché il Guggenheim che rinuncia ad esporre delle opere d'arte per queste ragioni, per ragioni di minaccia di violenza da parte di persone che vogliono tutelare la violenza contro gli animali. In realtà nelle prime due non c'è nessuna violenza, il terzo in effetti lo è, però è già stato esposto in molti altri musei. Infatti mi interessa sapere, conoscere la vostra reazione a questo, come reagite? Doveva ritirarli il Guggenheim? Doveva lasciarli? E sono delle opere d'arte oppure sono degli escamotage? E questo ci porta a un dibattito che è in corso in America. We are writing to ask you to remove Dana Schutz's painting Open Casket, and with the urgent recommendation that the painting be destroyed and not entered into any market or museum. Ecco, nell'aprile 2017 avete sentito queste proteste, c'era stata una protesta contro una rappresentazione artistica, Emmett Hill Open Casket, che era un'opera di Dana Schutz che rappresentava la Biennale del Whitney, l'immagine di questo ragazzo di colore che era stato massacrato brutalmente in Mississippi nel 1955 per aver posato i suoi occhi su una cassiera di un supermercato. Ecco, cosa è successo? Questo lo ricorderete, anche di questo mi sono occupato in una trasmissione. I movimenti di attivisti di colore hanno inscenato una protesta davanti al quadro dicendo che doveva essere ritirato, distrutto addirittura, bruciato, perché non era pensabile che un artista bianco potesse sfruttare una tragedia nera per il suo profitto. Il Whitney però non ha mollato, l'opera d'arte è rimasta esposta, ma sentiamo quest'altro episodio. The reality is we have to look differently at race in America if we're going to change this. We've been looking at it the same way for 20 years and here's where we are. And we both have to try to understand each other. Rudy Giuliani andò a una mostra nell'estate del 1999 e c'era il dipinto di una Vergine Maria di colore di Christoph Fili al Brooklyn Museum, e la colorazione però era stata data dalla miscela di escrementi di elefante ed acqua. E Giuliani ha detto: questa mostra deve essere assolutamente chiusa, l'opera ritirata è una perversione, diceva, è il prodotto di gente malata. In realtà, poi anche in quel caso, l'opera è rimasta e i musei hanno vinto. Domani, invece, il Guggenheim aprirà una mostra monca senza la sua opera principale e dunque, in qualche modo, avrà perso una sua battaglia per la libertà di espressione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato d'arte, di contestazione di opere d'arte, e dunque come canzone del giorno vi propongo dei 10cc, Art for Art's Sake. New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.